vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ciao Cruciani, minchia, io sono di nuovo qua che sto andando a lavorare. A mezzanotte entro, maledetto. E per la tua gioia mi sono appena fumato un cannone gigante. Sono passato davanti a tre camionette della polizia. Mi sono anche fatto un selfie mostrando orgogliosamente il cannone. E adesso cazzo vado in ufficio, mi metto davanti al computer, tac, cuffiette, pian piano senza che si vedano da sotto. E via, la zanzara, cazzo, la zanzara, alla glande, man. Abbiamo allevato dei mostri, questo mi sembra evidente, no? Totali, mostri totali. Però bisogna dire grazie a queste persone che ogni giorno contribuiscono al successo di questo programma e soprattutto ci fanno capire che si può ascoltare la zanzara anche in ufficio con le cuffiette, fottendo i capi e soprattutto imbottiti di marijuana. No, sto scherzando naturalmente, però con una cannetta, Sì. A proposito di marijuana, che io non ho mai toccato in vita mia, ma questo non vuole essere un vanto. Però metto le mani avanti, dice tu sei drogato, tu ti fai dalla mattina alla sera. Io non ho mai toccato una droga in vita mia, mai. Ma non è che lo dico per essere più puro degli altri, no. In realtà è una cosa che ho sempre detto, cioè io non mi sono mai fatto nulla in vita mia. La gente mi guarda, siccome ogni tanto delle una cannetta, dai. No, ti giuro, non ho mai fatto nulla in vita mia. Una cannettina. Ripeto, per essere al passo con i miei compagni di classe, con i miei amici dopo la scuola, eccetera, eccetera. E per non sentirmi un po' a disagio, all'inizio lo facevo, adesso non me ne fotte più nulla, mi facevo passare la canna, me la facevo passare e poi non aspiravo. Quando qualcuno se ne accorgeva, diceva: ma tu non aspiri? Ma quelli sono gli infami, quelli che lo fanno. No, allora ma che fai sprechi? Che fai sprechi? Allora. Certo. Vedi che sprechi, sei, vedi che sprechi, sei bravo. Il fumo, fratello, sprechi il fumo. Ma che fai sprechi? Mi dicevano: ma che fai sprechi? Allora, certo, che te la passiamo ragione a fare? Ah, ti avrebbero dovuto arrandellare. Ma ognuno arrandellare fa quello che vuole. Cioè, puoi aspirare. Capito, io non sono un fan dell'aspirare. Male. Ma perché parliamo di marijuana all'inizio della trasmissione? Il TG3 regionale del Piemonte, se non sbaglio, ha mandato in onda un incredibile servizio che è stato sbeffeggiato dalla cosiddetta rete, come direbbe Grillo, dalla rete, dal web, in cui pare che abbiano scoperto l'esistenza della marijuana. Cioè esiste una roba chiamata, state attenti, THC. THC è il principio attivo, no? Il principio sì attivo. È come dire la marijuana. Hanno scoperto che c'è la marijuana. Adesso noi passiamo invece a raccontarvi una storia brutta, perché è una storia di droga. C'è una nuova droga che si è affacciata sul territorio piemontese, si chiama THC, è una nuova sostanza stupefacente con effetti molto pericolosi. Secondo una ricerca dell'azienda sanitaria Torino 2 si sta diffondendo soprattutto fra gli adolescenti. È la marijuana, sveglia amici miei, sveglia! È la marijuana, esiste da un bel po' di anni. I dati presentati dall'ASL 2 Dipartimento delle Dipendenze sono preoccupanti. Più di 67.000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni in Piemonte hanno assunto, oltre alla marijuana, la THC, una sostanza psicoattiva contenuta nelle infiorescenze della pianta di cannabis, che ha effetti 10.000 volte superiori. I signori Rom, sai di cosa sto parlando? Sì, hanno fatto. Allora, in una roba diffusa da TGcom24, capitanato e diretto dal professore emerito Paolo Liguori. Sì. Un rom intervistato, sai che nel quartiere Lorenteggio a Milano, ma la cosa si potrebbe dire di tantissime città italiane, ci sono occupazioni abusive di case. Naturalmente non è, sì, che le case sono occupate solamente dai rom, ecco, o da extracomunitari, ma anche da italiani. Uno di questi rom, intervistato da uno che va lì a porgere il microfono, a dire: sì, bisogna dire che non si sottraggono mai. No, non si sottraggono rom alle interviste. Mai. Questo è una soprattutto cosa da notare, no? Scusate, ma e se c'è un'anziana che ha bisogno, voi che fate? Senti come risponde questo rom: bisogna mandare via gli anziani perché mandarli in una casa di riposo, beh, all'ospizio. Questo. Beh, questo è. Sono anche gentili da questo punto. Ma che gentili! Ah, beh, dai, l'ospizio dicono. Dai! Cioè, un ambiente più consono. Dai! Sentiamo, sentiamo comunque. Magari questa casa è stata assegnata a un'anziana che aveva diritto, che da tanti anni era in lista d'attesa. Un'anziana da 80-90 anni, invece come una famiglia che ha 5-6 bambini, è meglio l'anziana, che vive ancora 2-3 anni. Se ne va perché è questo il... Se è un suo diritto. E poi quelli dal comune vanno dentro, fanno loro e mettono un prezzo da 150.000 euro la casa. Ma magari mettessero i prezzi da 150.000. Mi pare un economista questo qui anche. Cioè assegnano la famiglia alla famiglia, sì, di 5-6, no, cioè i rom. Mi pare che strano che non scriva per il Sole 24 Dai, Ore, voglio dire, su. Perché ha fatto un ragionamento anche economico. Cioè, no? Non mi dire che tu sei favorevole, è meglio affidare la casa a una famiglia di 5-6 elementi, no, dice, soprattutto rom, e non a un anziano. Ma adesso lascia stare che l'ha detto un rom, ma una signora di 90 anni, se sta in una struttura, 80, come veramente. Dire. Ma che cazzo c'entra? Ma uno ha diritto o meno a prescindere dal fatto che. Comunque, perché lascio le interviste, sti rom. Questo è l'altro punto. Senti, curioso. Senti questa roba, senti ancora, continua questa roba. Quindi l'anziana dove deve andare? Non può più. Non ha parenti? Deve andare dai parenti? E se magari non ha figli? E non ha figli? Ci sono case. Quella... Case di riposo? Case di riposo, case quelli dai anziani. Ma sì, dai figli. Non hanno figli gli anziani? Non hanno figli, dice il rom. Dice il rom, ragazzi miei, dai. Ragazzi miei. Poi uno dice che diventa razzista con i rom. No, poi dice che uno diventa ha dei pregiudizi sui rom. Per carità. Però, ripeto, uno dice che ha dei pregiudizi sui rom. Poi rilasciano queste interviste. Parenzo, perché una volta per tutte non diventi ufficialmente il portavoce della comunità rom? Cioè, ci sarebbe bisogno veramente di una sterzata. Tu, in combutta con Gad Lerner, potete tranquillamente diventare... In combutta. Esatto. Come in combutta? Esatto, tu in combutta con il signor Lerner... Mi ci sia un lavoro radicale da fare sulla comunicazione. Fate perché... un bel lavoro di comunicazione con la comunità rom. Diventate portavoce. Guadagneresti molto di più, tanto quelli soldi non mancano ai signori rom, no? Cioè, non mi pare che... Eccola, la buttata in scivolata. Battutina. I fondi. Non mi pare che ai rom mancano i fondi. In rame ti pagano. Amico mio, tutto si può dire tranne che i rom facciano delle cose legali. Ma non la maggior parte dei rom fanno cose illegali. Poi lascia perdere. Ci sono i grandi ladri in Italia, ci sono i truffatori, ci sono altri delinquenti. Bravo, però una cosa è certa: il mondo rom non è conosciuto per essere limpido, con le mani limpie. Il signor Madoff dei Parioli, ad esempio, il signor Madoff. Bandito pure quello. Tutti pregiudizi. Comunque, dobbiamo riferire che la Santanchè è penetrata in un campo rom. Sì, l'abbiamo visto col signor Poletti. Ha lasciato Sallusti ed è andata in un campo rom. Che di bene, ragazzi. Senti come è stata Ho visto tutto. Comunque, è spettacolare questa cosa qua. Accompagnata da Poletti nel campo rom. Ovviamente, a uso di telecamere per Del Debbio. Certo. Amici miei, cosa poteva succedere? È tutto scritto, è meraviglioso. Perché lì prendono la Santanchè, la portano in un campo rom e ovviamente c'è lo scontro, gli insulti, le cose, e la Mercedes. È tutto già scritto, è un mondo meraviglioso, fantastico. Qua, oltre a costarci 50.000 euro all'anno, dai, e dicendo che non c'hanno i soldi, vedi che belle macchine, hanno la Mercedes, anche quella piccola che i nostri pensionati, i nostri giovani, se la dimenticano. È bello che pia 20.000 euro lei come tutti gli altri là, senza fare niente, riscalda solo le poltrone, guarda che si trucca, che si fa, viene qua e ci vuole mandare pure via. All'attacco questo rom, pensa all'attacco. Beh, non è che ha detto delle cose scombinate. No, cioè, se non l'avessi pensato come un rom, a parte che aveva l'accento romano. Se poteva essere, Salvini, un grillino, certamente uno qualunque, perché voglio dire, cosa gli ha detto? Che guadagna 20.000 euro, che arriva lì truccata, eccetera, la Mercedes, capito? Senti quest'altra cosa, senti ancora contro il rom. È bello lei che pia 20.000 euro, è giusto? C'è gente che si muore che di fame, non lavora lei pia 20.000 euro, è giusto? Perché non si abbassa un po' il suo stipendio come tutti gli altri? Ma l'arroganza che vengono a giudicare noi, questi qua che non hanno lavorato mai un giorno. 45 anni che stiamo qua, ma te pare bello? Ma dove stai, dottoressa? Ma dai, ripiede un attimo, ma che sei arrivata qua? Fa solo che prodigi. Ripiede. No, dimmi cosa. Attivi, guarda le guardie tutto qua. No, il rom romanesco combatte, è straordinario. Combatte. Ripiede, ripiede, guadagni 20.000 euro al mese mentre c'è gente che muore di fame. Il rom che parla il romanesco, sì, dimmi che sbaglia, come si fa a dire che sbaglia? Magari poi no, ma quello sarà, ripeto, un criminale. C'è non un lo sacco sappiamo, di gente però... non rom che lo dice, lo pensa. Ecco, sì, appunto. Allora, ragazzi, ieri in una trasmissione, credo sempre da Del Debbio, si è parlato di vegani, come al solito, di cibo, come al solito. E domandate, signor Poletti, ieri quel geniaccio maledetto. No, non è che possiamo fare la Poletti Story, scusa. Dire, ma è andato in un ristorante cinese a mangiare gli involtini primavera, signor Vabbè, Poletti. Ma chi se ne frega adesso? Ma chi se ne frega? Allora, vabbè, che ha scoperto? Ecco cosa che si ha scoperto? Mangia. Eccoci il titolo, era ecco cosa si mangia nei ristoranti etnici. L'involtino primavera. Ma l'involtino primavera si mangia. Ecco cosa si mangia. Era lì che mangiava. Intervistava la cinese e intanto mangiava quel, mamma mia, ragazzi. Allora c'era Cecchini a un certo punto, il macellaio. C'è Cecchini, simpatico, il quale, no, ma stupendo, ha detto però una teoria che anch'io, che sono molto carnivoro, cioè sono carnivoro e come sapete non ho in grande simpatia i cosiddetti nazi vegani e gli animalati. Adesso c'è un nuovo conio, ho fatto gli animalati, però amico mio, non si può sostenere che gli animali producono carne migliore se sono uccisi in maniera compassionevole. Cioè, no, ma senti questa cosa, perché è una teoria un po' bizzarra da parte del signor Cecchini. Io dico che la carne da animali felici, e forse i vegani strilleranno, cioè animali che hanno spazi liberi, cibo buono, che hanno una buona vita come quella che animali si sogna contenti, tutti contenti, e che hanno una morte compassionevoli, senza ecco, mucche felici, animali felici, hanno una carne migliore, non solo di qualità ma anche di salute. Allora, io non lo so come è si vero, possa... Eh? Sì, vabbè, amico mio. No, però... no, guarda che ha ragione, non è da prendere in giro questo. Non lo so, la morte compassionevole... E produce, no, senza provocare gli animali dolore, felici, certo. Danno carne migliore. Non credo sia così. Come oggettivamente. No, come per il pesce, non sei mai andato a pesca tu. Alzo le la mani. Prima roba che ti insegnano quando vai a pesca è come lo uccidi con un colpo netto il pesce, perché altrimenti il mercurio si espande in tutto il suo sì, tutto d'accordo, il corpo. Il pesce può essere così, non lo so. Anche però... la carne, sennò diventa più nervosa. Davvero? Non lo è così. So, guardate, la morte compassionevole, gli animali felici, cioè quelli che vivono bene, pascolano bene, eccetera, producono carne migliore. Può essere, amico mio, può essere. È così. Vissani, sempre da citare, i vegani, una setta pericolosa. Beh, non è che dice niente di nuovo, lo dico da un anno io, amico mio. I vegani sono veramente pericolosi, perché io dico che siano una setta proprio bella e buona, perché vegani addirittura, insomma, un bambino a Livorno stava per morire dai genitori vegani, cioè loro non parlano di queste cose. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Cruciani, mentre parli io mi innamoro e mi illumino di zanzara. Allora, uno mi scrive, sì, vabbè, hai aspirato, come diceva Clinton, no? Come diceva Clinton, che non ha mai, ha detto di non aver mai fumato uno spinello, di averlo solamente, no? Di averlo solamente tenuto in bocca e mai aspirato. Ma non, ragazzi, è così, è la verità. Non ho mai tirato su uno spinello. Credo. Che cazzo, cioè, perché dovrei dire una cazzata? No, figuriamoci, credo, ho detto le peggio cose. Hai detto, no, appunto, cioè, stavo per dire, sarebbe la cosa più normale in questo caso. Ho che detto hai delle fatto cose tutte vere, sì, ma delle appunto, cose, appunto, diciamo che sono per i ben pensanti moralmente riprovevoli. E questa qua sarebbe una cosa minima. Cioè, cosa ogni tanto mi sono fatto qualche canna. No, magari fosse. Magari fosse, perché. No, non me la sono fatta per mille motivi. Dunque non è vero. Però I leghisti sono incazzati, incazzati neri come belve, per una frase pronunciata dall'ex presidente della Repubblica Napolitano durante l'intervento che ha fatto, credo a Che Tempo Che Fa, là, sì, da Fazio, no, forse in un'altra occasione, in realtà. No, no, da Fazio, credo. In un'altra occasione, no, in un'altra occasione. Comunque, una frase detta da Napolitano, che cazzo me ne frega dove l'ha detta. Napolitano ha parlato di Lega xenofoba. Beh, noi abbiamo in Italia il fenomeno della Lega, oggi è diventato la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe, di posizioni nazionalistiche, di posizioni anti-elitarie, anti-istituzionali. Salvini addirittura ha detto che dovrebbe essere ricoverato Napolitano, era un convegno, non so dov'era, dovrebbe essere ricoverato. Veramente sgradevole, uno perché ma è una persona... Ma è normale, se questo gli dice uno che è xenofobo... Uno perché bisogna rispetto per le persone, specie per gli ex presidenti della Repubblica, primo. Ma non fosse per quello, se non altro, ha detto una cosa talmente normale, anche banale, però se un partito, c'è un partito che è presente in Parlamento, che ha il 15% nei consensi secondo i sondaggi, e tu dici un partito, che vuol dire un partito xenofobo, lo dipingi come un partito violento, come un partito pericoloso, un partito razzista. È contro gli stranieri, letteralmente. Ma no, contro, ma è una cazzata. Stranieri. Xenofobo vuol dire che è contro gli stranieri. Dovrebbe essere contento Salvini, mi pare che lui sia contro gli stranieri. Cioè, dovrebbe dire sì, è vero, siamo xenofobi, questo dovrebbe dire. Xenofobo, invece certo. Lo vogliono denunciare, pare. Lo vogliono denunciare, ma Napolitano. Cosa? Quale sei? Perché ha detto Napolitano, una cosa, lo vogliono denunciare. La Lega non è xenofoba, xenofobo vuol dire contro gli stranieri, xenofobo. Quelli ti dicono, noi non siamo contro gli stranieri, no, ma siamo contro l'immigrazione incontrollata, ti potrebbero dire, per esempio, no? Come risposta. Ho capito. No, può essere. Comunque mi dicono che è vero quello che sostiene Cecchini, perché per esempio il filetto di Kobe, te l'ho detto, è giapponese. Giapponese viene massaggiato con per la mesi, birra. Per mesi. Sì, ottimo, però. Carissimo. Beh, ma ormai ottimo. Carissimo, sì, lo puoi trovare. Carissimo. Sì, no, lo puoi trovare pure a prezzi ormai. Ormai lo mangia pure il carrozziere, che peraltro è molto più ricco di me, insomma. Tutto rispetto per i carrozzieri, per ecco, carità. Appunto, no. Che dici delle cose veramente classiste. No, che classiste. No, niente. No. Chi c'è qua? Stefano da Salerno, andiamo, su, cominciamo, dai. Salve, senti. Dimmi. No, niente, tu hai iniziato la trasmissione facendo intervenire quel ragazzo che ha detto che aveva fumato e poi andava al lavoro. Io volevo dare il mio piccolo contributo. Io ho 37 anni, ho fumato circa una ventina d'anni. E ho sentito in dovere di dire, praticamente non sono un battito che non ha mai fumato e quindi dice no, quello fa male, non mi... Io ho fumato e posso dire che comunque effettivamente, adesso non fumo più da 3 anni, effettivamente qualcosa fa. Non è che chissà che si muore. Ho capito, ma quanto, viene, quanto ti sei fatto per 20 anni, amico mio? Bisogna vedere quanto ti sei fatto per 20 anni. Magari ti facevi 2-3 al giorno. Due, tre al giorno. Ho capito, però 2-3 al giorno non è una cannetta ogni tanto. È 2-3 al giorno, sei praticamente a rota di canne, come si dice in gergo, no? Cioè, no, non lo sono più perché non fumo più da 3 anni. Ma eri quello che è. Però, eri. Non potevi campare durante la giornata senza... Ci sono stati anche dei momenti di interruzione lunghi 2-3 anni più o meno. Comunque quello che volevo dire è che appunto queste sostanze, il tetraidrocannabinolo, che è il principio attivo di cui avete parlato, che sono sostanze psicotrope, no, hanno... Sì, dovrebbero saperlo quelli della RAI in Piemonte, che certo, non c'è... Certo, non lo sanno. Hanno gli effetti collaterali proprio delle sostanze psicotrope, quindi insomma dopo diversi anni ti possono portare ad avere degli effetti collaterali. Quindi dire mi fumo il cannone, vado a lavorare, può essere anche una cosa simpatica da sentire, però sarebbe bene... È pericoloso, vabbè, è pericoloso. Con male, che è pericoloso. Vabbè, ma adesso questa non è una trasmissione educativa, cioè no, non, è che, ma senza polemica, non è una trasmissione che deve dire fermi tutti, eccetera. Se capita uno se li fa pure, però voglio dire attenzione, perché anche perché voglio dire solo questo, poi ti lascio. Noi abbiamo vissuto l'epopea, diciamo, dal 94 fino a qualche anno fa, dell'evoluzione delle varie droghe, anche l'hashish, la marijuana, che si formavano negli anni 90-2000, erano leggermente diversi da quelli di oggi. Vabbè. Forse erano ancora un po' più naturali, migliori. Può essere, oggi, c'è tanta droga sintetica, ragazzi, sì. Fumano tanta schifezza. Va bene, ciao. Fabrizio, Firenze, vai. Mamma mia, la gente quanto parla. Fabrizio, vai, dimmi. Pronto, ciao Cruciani. Dimmi, ciao, vai veloce, vai. Allora, io rappresento le sentinelle sedute. Cioè? Ieri hai parlato fondamentalmente della marcia per la prostituzione. Sì, la marcia dei perfettamente. Dei peccatori, diciamo. Chiamiamola così, più che dei puttanieri. Dei peccatori, la marcia. Siamo tutti peccatori. Noi la differenza delle sentinelle in piedi, già come siamo seduti, per cui già siamo un po' più godrecci. No, le sentinelle a letto, si potrebbe dire. Le sentinelle a letto. Poi dopo la gente fraintenderebbe. L'anno scorso abbiamo fatto un flash mob a Prato anche. E noi stiamo cercando di portare avanti questa cosa, per cui... Cioè, avete fatto il flash mob anche... rappresentante di cose? Di frequentatori di puttane, scusa? Sì, sì, di per la prostituzione, riapertura delle case chiuse... Sì, ma chi è a favore della riapertura delle case chiuse? Non è necessariamente... Io voglio proprio organizzare... No, ma sto scherzando, ma non è limitato. Infatti, la marcia, non dei puttanieri, ma la marcia dei peccatori, la voglio chiamare. Sì, ecco, peccatori, anche noi che andiamo in queste cose, vogliamo partecipare. E vorremmo lanciare il nostro distintivo. Cioè, come c'è la coccardina... Sì, lo faremo, devo chiudere Fabrizio, voglio aggiungere una cosa, pare che in qualche comune vicino Salerno, eccetera, addirittura mettano degli infiltrati dei vigili urbani, con degli infiltrati senza divisa, per punire, per colpire i frequentatori di puttane, siamo arrivati a questo in quest'Italia puritana del cazzo. Parenzo, resisti, che non sono tutti come la maggior parte di quelli che chiamano alla trasmissione. Resistere sempre. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Semplicissima, è Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. La Zanzara. Allora, io voglio capire per quale motivo nel negozio di animali sotto casa mia non ci sono più i biscotti per cani normali, ci sono i biscotti vegani all'albicocca. Ora io ho un mare in mano, secondo voi mangio i biscotti all'albicocca vegani? Mamma mia, quant'era incazzata ieri sera la signora donna Assunta Almirante, eh? Quanto l'hai fatta incazzare, David? Io ero incazzato, no? Che poi nel corso dell'intervista ha cambiato idea sulla strada intitolata d'Almirante. Ha fatto bene, vedi, l'abbiamo fatta ragionare. No, perché ha capito quanto erano incazzati quelli della comunità ebraica, secondo me, ma sbagliando. Ma non devono essere, non devono essere quelli che tu chiami quelli, dobbiamo, della comunità ebraica. Detto, non dobbiamo essere noi, tu dici noi, perché tu dici sempre che sono ebreo, quindi lo ricordi. Beh, scuola, io sono vergogno di appartenere alla comunità ma ebraica romana. Ma tutt'altro, allora, io dico che, a parte che non sono iscritto alla comunità ebraica di Padova, non lo so. No, vabbè, uguale, che cazzo se ne... Però deve essere questa una cosa che riguarda gli ebrei, come ti piace dire a te. Cioè, deve essere una cosa di buon senso di tutti gli italiani. No, cioè, no, io non sono d'accordo. Che c'entra? Mi hanno ricordato molte prima persone. Di tutto un cittadino italiano antifascista. Sì, ma molte persone che hanno chiamato, dopo sentiremo anche i WhatsApp. Molte persone che hanno chiamato. Certo, molte persone hanno ricordato adesso che esiste, per esempio, Largo Beccaria. Amico mio, no, Beccaria, scusa. Ma siete stupidi? No, Bava, Cesare quello Beccaria. Là. No, Cesare Beccaria, scusa, un altro, come si chiama? Un generale, insomma, che fu No, Beccaria non c'entra niente. Un generale che Cesare fu. Cesare Beccaria, bellissimo. No, lascia perdere Cesare Beccaria, non c'entra niente. L'ho detto, ho sbagliato, ma hanno scritto un'altra roba. Insomma, uno che ha. Ci sono strade intitolate a gente ad assassini. Senti, il discorso è chiuso. Comunque, sono a favore a donna Assunta, sentiamo come fate incazzare. Intestare la via Almirante, perché la cosa è questa: via Almirante, via Almirante. Ma è già morto, via. Ma no, è morto. Se c'è scritto piazza, no, ma via, vedi come suona: via Almirante, via. Va bene, allora va bene. Ha dato tanto agli italiani, non credo, sì, no? Sacrificandosi la vita. Stia tranquilla che per fortuna non ci sarà mai, dico io. Per fortuna non ci sarà mai, per fortuna. E questo che glielo dice a lei? Ma questo è Parenzo che ricorda che il signor Almirante è stato nella Repubblica Sociale Italiana, nonché direttore della difesa della razza, dove ci scriveva. Mamma mia, sono cosa 17 anni aveva. Non si vergogna persino di dirlo. No, ma che lo ricordo come? 17 anni aveva e non la invito più a dire queste cose. Ma non la invito più. Perché è una vergogna per chi li ripete. Io dovrei cambiare residenza. Se abitassi in via Almirante, chiederei il cambio della residenza. Ma adesso come farei? Esageri, dai. Ma te su. Scherzi? Ma scherzi davvero? Dici col taxi, scusi, mi porti in via Almirante. Ah no, scusi, no, non voglio andare. Tu non abiteresti a via Almirante? Mai. Ma voglio dire, poverino, ma non... poverino. Mai. Magari avesse l'onore di abitare in via Almirante. Ma guardi, non avesse ci penso. Chiamare l'onore di via abitare Carlo in via Rosselli. L'onore io voglio abitare in via Carlo Rosselli. Via Einaudi, via Rosselli, via poverino, Pasolini. Lì abito io. Poverino, un corno. Il signor Almirante scrisse delle cose terribili sulla difesa della razza, rivendicandolo. Almirante viene peraltro, avuto tante e gli battono e gli avanzano. Ha camminato troppo nella sua vita, lei è stato sempre chiuso in un cantuccio. Cosa fa a parlare? Stia buona, arrivederci tante cose. Nessun cantuccio. Non parlo con i cretini io, arrivederci. Nessun cantuccio, grazie signore. Sto andando in corso Hitler, che ho un appuntamento angolo via Pribiche. Siamo al top, ragazzi. Il fascismo ha fatto grandissime cose per l'Italia. Ha creato i cessi pubblici. Intestiamo quindi un Vespasiano, almeno uno, a Giorgio Almirante. Crociani, se era per Almirante, col cazzo che c'era la zanzara. Mettitelo in quella testa bacata. Parenzo, vai ad abitare in via Lenin. Cruciani, la gente se ne sbatte i coglioni che si chiami Giorgio Almirante, una via. L'importante è che non ci stanno le buche. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, prima volevo dire, via, ci sarà una via, via Bava Beccaris, 1898, strage di Milano, certo. Sì, piena di vie. Per cui di che parliamo, dai? Leonardo, provincia di Bergamo, non vai. Non c'entra niente. C'entra. È intestata sta via, allora. Leonardo, vai, Leonardo, provincia di Bergamo. Vai. No, ma conta anche chi lo propone, però, scusami, questo è importante. Cioè, il fatto che una parte politica, cioè la destra... Vabbè, ma è normale quello, no? No, non è normale un cazzo. La destra... Non è condivisa la cosa. Esatto, cioè una via deve essere condivisa, vabbè, no, ragazzi, però. No, ma non, adesso non voglio fare una discussione sulle vie che non interessa a nessuno, ma è significativo che lo proponga. Ma è normale, chi lo deve proporre? Un sindaco di sinistra, il Manganello, come si chiama? I Fratelli d'Italia lì. Ma non è vero, perché nel passato anche sindaci di sinistra hanno proposto, ecco, Largo Bottai, quando Rutelli, dai. Però fu più intelligente, perché Rutelli, sì, era un sindaco sempre più intelligente. Ma che cazzo vuol dire? Sempre una proposta. No, era. Ti sto spiegando, Rutelli era notoriamente un antifascista, notoriamente. Vabbè, uno e di quando sinistra, propose sì. Uno di sinistra, era un antifascista, bene, pulita, schiena diritta, faccia pulita, mai inchieste e quant'altro. Vabbè, quando propose quella roba lì scatenò anche un giusto dibattito di città, poi lui stesso la ritirò. Vabbè, allora? Ma fatta da lui poteva avere anche un senso. Se la dice Meloni fatta, non va bene. Fatta da chi rivendica un'appartenenza a quella storia ha tutt'altro sapore. Come diceva il tuo amico Nietzsche, ti ricordi Nietzsche? Sì. L'avrai letto Nietzsche? Leonardo, provincia di Bergamo, fammi sentire Leonardo. Leonardo, me ne fotto di Leonardo! Non me ne frega nulla di Leonardo. Nietzsche. Non gliene frega niente. Niente, adesso lo ascoltiamo. Meglio Nietzsche. Leonardo di Nietzsche, dai, Nietzsche, forza. Nietzsche diceva che è importante chi dice le cose, perché è fondamentale. Vabbè, l'abbiamo capito. Leonardo dalla provincia di Bergamo. Sentiamo Leonardo. Non è che ci vuole Nietzsche per dirlo, Leonardo, no, vai. Però è importante. Sentiamo Leonardo, avanti, vediamo. Pronto? Oh, dai. Sì. Buonasera a tutti, buonasera. Dimmi. Sì. Io volevo solo, io sono un premesso che ho 60 anni e sono un leghista della prima ora. Sì, premesso questo. Vabbè, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Sì, appunto, va bene. Premesso questo. Anch'io ogni tanto voglio confermare, voglio confermare le parole di Napolitano, perché cioè, io tu sono... ti senti xenofobo? Sono xenofobo. Vedi? E sono razzista. Vedi? Nei confronti di quei parassiti, paraculi che stanno portando, che hanno portato l'Italia alla malora. Vedo. No, ma questo dice, io sono razzista. Sono razzista. Di che si arrabbiano? Sono razzista con tutte quelle persone che approfittano di chi lavora, di chi... Vedi che cosa? Vabbè, guarda. Ma sei razzista con chi? Non ho capito. Sei razzista sono con chi? Sono razzista. Vedi? Con quelle persone. Ma è diverso, sta dicendo un'altra cosa. È razzista contro i parassiti. Con i parassiti. Chi sarebbero? Sì, ce ne sono tanti in Italia. Ce ne sono quelli che se ne approfittano dei neri. Ce ne sono che se ne approfittano di chi scappa dalla guerra. Ce ne sono quelli che se ne approfittano degli animali. Ce ne sono di quelli che se ne approfittano di chi ha sempre lavorato per questa Italia. Per questa Italia che guadagnano. Dunque ha ragione Napolitano allora. assolutamente ragione, io però sono razzista contro questa gente. Vedi? Che ha sempre... Che ha sempre tu sei razzista con Napolitano in pratica? Io sono razzista con tutta la razza di chi vive con sulle neri, spalle con chi? Degli, su, chi vive sulle spalle degli altri, che se ne approfitta attraverso le, la loro conoscenza, il loro potere, le loro, i loro scranni, la loro potenza. Sì, ma non si capisce con chi sei razzista. Nulla. Non ho capito con chi sei razzista. Io sono contro i parassiti, quelli che sprecano i soldi pubblici. Con chi? Con chi usa e gli immigrati? E gli immigrati? I immigrati a me non hanno mai dato nessun fastidio. Basta che vengono qua perché no, a lavorare e fare quello che facciamo noi. Io ho lavorato in miniera, ho lavorato in miniera nella Bergamasca, sono andato in Sardegna a lavorare in miniera e adesso mi trovo, è un po' di tempo che mi trovo gente che mi dice che è vero, io non ho niente con nessuno, sono razzista per la razza dei furbi e dei paraculi. Ciao, ciao Leonardo, ciao. Alfonso, ciao. Salerno, vai Alfonso. Ah, buonasera. Senti, io volevo fare una domanda a Parenzo. Volevo chiedergli come mai i rom non vengono ad occupare gli appartamenti a Scampia oppure allo Zen di Palermo o in qualche quartiere di Bari Vecchia? Ottima domanda. Non lo fanno perché... Vabbè, non vanno perché è evidente perché c'è la criminalità. C'è una criminalità più criminalità di loro. Sì, certo, ci sono anche... Guarda, un popolo che ha sofferto tantissimo come quello dei rom, che sarà abusato da tutti quanti. Ma non vanno lì perché ci sono dei criminali di alta levatura lì, cioè non li farebbero allora, pascolare tranquillamente. Facciano i forti con i forti, non con i deboli, con la vecchietta. Non si ruba a casa dei ladri. Magari poi dopo non sa dove andare a dormire. Ciao Giuseppe, Napoli, vai. Giuseppe, buonasera, siete dei grandi per parenti. Dimmi Giuseppe, dimmi. Volevo riallacciarmi al discorso di prima dei cannabinoidi e quant'altro. Io faccio tutto regolare mattina e sera, non ho nessun tipo di danno collaterale né quant'altro. Cioè, che fai? No, io ne fumo una la mattina alle 8.39 prima di andare al lavoro e una la sera alle 8.39 prima di andare a dormire. È pieno di gente che si fa le canne, incredibile. Vabbè, una marijuana fa bene, cioè non è che... Fa bene, adesso in assoluto fa bene, non si può dire in assoluto fa bene, dipende dall'uso che se ne fa. Dipende dall'uso che se ne fa. Male. Sì, ma sono d'accordo con te, se io ho detto prima, se uno si fa 3-4 canne al giorno, qualche problema a un certo punto ce l'ha, in teoria. Poi magari ci sono fisici che riescono a resistere anche a 3-4 canne al giorno, dipende naturalmente dal fisico, dalla testa di ognuno di noi, di chi fa uso di queste sostanze. Io conosco gente che si fa 3-4 canne al giorno da anni, ovviamente non è che conosco l'analisi del cervello di queste persone, si è già andato in pappa, però lavorano tranquillamente. Poi magari ci sono persone che si fanno 3-4 canne al giorno e sono completamente destabilizzati tutta la giornata. Cioè sono cose molto personali, non si può dire, no? Cioè, vabbè, ma perché ti fai una canna la mattina e una la sera? Qual è l'effetto che ti provoca? La mattina lavoro sono più concentrato, la sera prima di andare a dormire sono più rilassato. Cioè dipende sempre quello che ti fa fumare, perché se usi... l'erba di piazza che è piena di metadone fa schifo, stai un po' rincoglionito tutto il giorno. Eh beh, però non c'è dubbio. Se prendi come esempio una commissione americana che l'ha legalizzata in California e alzano soldi a tonnellate, oppure gli olandesi che hanno fatto un business. Sì, Colorado, cosa, Colorado. A voglia, appunto. Ciao, fermo. Se becco Carlo Dormina a Roma, me voglio fare una foto insieme a lui e me la voglio attaccare in camera da letto. Viva Carlo, Dormina sindaco. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Crucia, sono due le cose che mi danno sollievo nei miei viaggi intorno al mondo per lavoro: puttane e zanzare. Zanzare e puttane. Ma gente che va rispettata, gente che va rispettata, Parenzo. Non è gente cui va sputato in faccia come fai te continuamente. Materialmente. Tu sputi in faccia continuamente a queste persone. Moralmente sputi in faccia a queste persone. Non gli sputo aggressivamente, allora, materialmente, no? Della serie candidati. Come possiamo definire? Dovremmo fare una rubrica da qui alle elezioni. Impresentabili, molto semplice. Grotteschi. Guarda che candidato. Perché parli come Brunetta? Non ho capito. Lo so. Grotteschi. Curiosi, grotteschi, strani, cretini. No. Comunali Napoli 2016 per il candidato di Ala Manifesto col Morto, ex consigliere PDL e cognato di un boss. Praticamente c'è un tizio che si chiama Giuseppe Riganato, che ha fatto dei manifesti elettorali in cui c'è un signore morto, praticamente questo Riganato era il braccio destro di questo signore Giovanni Di Vincenzo, che secondo quello che riferisce il quotidiano La Repubblica sarebbe esponente, cioè parente di un boss, cognato di un boss, un tale Giovanni Di Vincenzo, cioè il morto. Allora ricostruiamo, c'è un manifesto elettorale, c'è un signore con gli occhiali neri, un po' in carne, con scritto ALA, che è il movimento di Verdini, dunque alleato del candidato del PD a Napoli, la signora Valente, alleato di Renzi, in sostanza, che si fa dei manifesti con questo volto, con questo simbolo, e dietro c'è il santino, il morto, no? Che è parente di un boss, capito? Sì, capito le polemiche, storia, no? Una storia pazzesca. Io lo chiamerei sto Riganato, questo Riganato, signor Riganato. A parte che come cazzo si fa a fare un manifesto elettorale con degli occhiali neri che sembra un boss? Sì, questo è una roba incredibile. Io pensavo il boss fosse lui. Siete in macchina, ma lo stesso, consultate il cellulare in macchina, andate su Google, velocemente. Togliete le mani dal volante. Esatto, tranquillamente. Lasciate la macchina andare anche fuori, no? Radio, provocate un incidente su grande raccordo anulare. Sfasciate tutto, che cazzo vi frega? Tanto è uguale. Per guardare Riganato, l'uomo in carne con il carne, ciccione, diciamo, un ciccione. No, ciccione di me, un ciccione. Un po' ma in senso grosso. Non alla Lemme, non come dice Lemme, un ciccione, un po' grosso, un ciccione, dai, un po' grosso, è brutto dire ciccione. Con gli occhiali neri da boss. Quello è strano. Proviamo a chiamarlo, dai, su ragazzi. Pronto? Riganato? Sì. Buonasera, qui Radio 24, la disturbo? No. Come andiamo, Riganato? Non c'è male. Ma tutto sto casino qua sulla foto. Non c'è male, dice. Ma come non c'è male? Stanno facendo un casino su questa foto che ho messo con il defunto Di Vincenzo, perché stanno facendo illazioni dicendo che ho messo questa foto perché magari voglio dare un messaggio. Era parente di un boss, no? Mi sembra. No, nessun parente. Cioè, hanno scritto stronzate. Sì, assolutamente. Però scusi, qui c'è scritto Riganato, scusi, perché lei che è candidato ha messo comunque la foto di un morto? Perché? Ho messo la foto di un morto, non perché volevo dare un messaggio, perché noi, io e Giovanni, stiamo portando insieme un progetto nel sociale. Quindi noi ci siamo sempre adoperati nel sociale. Era un omaggio, diciamo. È un omaggio su questa cosa, ho messo la sua foto per ricordare che quello che lui stava facendo lo sto portando avanti io. Lei è subentrato praticamente. Io sono subentrato. Ma lei che faceva? L'autista? Che faceva? No, io lavoravo nel CAF assieme, perché io e lui c'avevamo. Era il braccio destro lei? Che era? Sì, era il suo braccio destro, sì. Il suo braccio destro, ma scusi un attimo, allora il fatto che è cognato di un boss non è vero, non è vero. Beh, scusi, ma questi, l'ha scritto Repubblica. Sì, ma infatti stamattina sono venuti anche i giornalisti di Repubblica e io ho smentito questa cosa. È Onasone, lei lo conosce questo Onasone? Ma lo conosco, cioè lo conoscevo, è morto pure lui. Quartiere. Io vivo in questo quartiere, sono nato in questo quartiere, lo conoscevo. E com'era? Ma, che personaggio era? Tutto era solo una conoscenza così. Com'era? Una brava persona? Com'era? Sto una sola. Ma io non lo conosco di vista, non è che ci ho avuto a che fare. No, ma è stato massacrato però, in un'esecuzione di camorra. Sì, era un camorrista. Non so. Ma non lo so io questo, non so quello che faceva. Io conosco tante persone, non so poi al ma era un camorrista sto Nasone, no, per sapere così, per informare. Allora, questo non glielo posso dire perché a naso. A naso, secondo lei sto Nasone era camorrista o no? A naso dico. Non lo so. C'è gente un po' incazzata nel PD perché dice che ci sono persone candidate con Verdini che sono vicine alla camorra, diciamo. Vabbè, questo è perché purtroppo stanno sfruttando questa scia che è dovuta già da un altro candidato, per cui adesso stanno ritrovando il caso con me come secondo candidato. Sì. Vabbè, ma questo è politico. Ma non c'è la camorra, lo dica tranquillamente, non c'è la camorra, dai. Non esiste la camorra. Anzi, se esiste la si deve combattere, perché io sono contro la camorra. Però non c'è la camorra, ma la camorra è un fenomeno che lo sappiamo tutti quanti. Esiste la camorra, lo sappiamo bene, però è un fenomeno che va combattuto e va stirpato. No, però nei fatti non è così forte come si dice, dai, la camorra, che un'altra curiosità che c'è, ma che ho da questa foto che vedo, ma perché fa una foto nel manifesto elettorale con gli occhiali neri? e con la panza. No, ma non poi sono occhiali, sono i miei occhiali, che forse nella fotografia sono venuti sfumati con occhiali. Sembra lei il boss, scusi. Ma infatti, allora, anche io mi sono detto la stessa cosa quando l'ho visto, ma assolutamente sono i miei occhiali che ho fatto vedere pure stamattina ai giornalisti della Repubblica. Guardi, questi sono i miei occhiali, se sapevo questo forse l'avrei fatto senza occhiali. Beh, amico mio, sembra lei il boss. Poi con sta pancia dimagrisca un po'. Un po' di Photoshop. Questo sì, questo assolutamente. Dimagrisca un po'. Ma lei Verdini lo conosce o no? Certo, l'ho conosciuto sabato quando abbiamo fatto l'apertura della campagna elettorale. Voi siete alleati di Renzi, lo sa, no? Sì, lo so. Siete alleati. Lei pure, però, nel suo profilo ha scritto una filastrocca contro Renzi pochi mesi fa. Come mai? Che... qual era? Non me la ricordo. Allora, 12 dicembre 2014. Sì. Scende Renzi giù dal bosco e cincula di nascosto. Si nasconde tra l'erbetta e ogni tanto cinchiappetta. Vabbè. Lo fa piano. Non è che l'ho capito questa, ma è scritta tu. Sicuramente se è stata trovata sul mio profilo, forse perché è stata condivisa all'epoca. Ma che condivisa? L'hai scritta tu, Peppe Ricanato? Qui, no, cioè, no. Come no? Ma è amico poi mio. Poi è stata condivisa, c'è scritto poi condivisione. E ci rompe il deretano quando il culo ci fa male. Tanti auguri e buon Natale. È una poesiola di Leopardi. Beh, è una cosa fantastica. So, scende Renzi giù dal bosco, te la ricordi? Peppe? Mi sembrava una cosa tanto per scherzare. Cioè, un anno e mezzo fa Renzi ci inculava in pratica. Oggi invece lo appoggi, vabbè, ma va bene tutto in politica, per carità, o no? Vabbè, il passaggio in politica lo sappiamo, no? Non è che io si cambia bandiera, diciamo, sì. No, non è che io sto praticamente negando le mie origini, solamente tu. Che in questo momento, purtroppo, perché adesso la lista A la appoggia Renzi, sì. Però noi sappiamo bene che la lista A è una lista centrista. Ala, che vuol dire Ala? Autonomia liberale popolare. Autonomia? No, alleanza. Beh, amico mio, che vuol dire alleanza? Autonomia libera popolare. No, ma non è con alleanza. Alleanza? Alleanza liberale autonomie. Ma come liberale autonomia? Ma porca puttana! Devi imparare la sigla del partito! Alleanza liberale popolare autonomie. E ti ho detto io, alleanza libera popolare autonomia. Oh, è il tuo partito, vecchio mio. Certo, su. No, abbracci, certo. Abbracci e baci. Saluti. Arrivederci. Questo Zammacco, la sigla del partito suo, no. Dai, Ala. Mi dispiace di essermi arrabbiato, mi dispiace. Beh, come ti dispiace, scusa, no, come ti dispiace? No, tenerezza anche, mi dispiace, chiedo scusa se mi sono un attimo arrabbiato. Ma fai in culo, dai. Però non sa neanche la sigla Carmine del partito. Carmine da Roma, no, un po' mi dispiace. Dai, Carmine, mi dispiace. Giuseppe. Dimmi, Carmine, dimmi. Ecco. Buonasera, io sono quello di WhatsApp. Vabbè, Carmine, dimmi. Sono tanti però, signor Carmine. Vabbè, Carmine, dimmi, non so, io ormai confondo. Dimmi. Giuseppe, siamo massacrati però con questa trasmissione. Parliamo un poco di pelo, un poco di figa, un poco di mignotte. No, Carmine. Questo chi è? Un alunno di Zagrebelski, questo professore? Io sera quando torno a lavorare, Giuseppe, c'è sì, io... Sì, però ho capito. È un alunno del professor Nicolfi, questo qui. Chi è questo qua? Però c'è un... Ho capito, Carmine, dammi un po' di tempo. Entriamo nel vivo dopo di alcune cose, di alcuni argomenti. E dopo, Giuseppe? Io adesso... Ma che fai tu, Carmine? Che fai? Il camionista, che fai? No, ma che camionista, faccio il rappresentante. Il rappresentante, ma poi non è importante il lavoro che faccio, è importante che si parla di femmine, di Ho capito, Carmine, ma non è che si può parlare sempre di femmine, siamo ridotti male. Che parlavo? Parliamo ogni tanto di politica, ogni tanto di qualche argomento. Ho cresciuto alla scuola di Angelo Panebianco. Vabbè, ma ho capito, ma lascialo perdere. Io però posso dire una cosa a parente, non è che fa moralista, cioè... Io lo voglio bene, lo ascolto da sempre, però dice che siamo animali, che siamo esseri ignobili. No, tu dici che sei perché tu vai a puttane? Certo. Sempre fisso. È normale. Sempre, una volta al mese. Miserabile. Una volta al mese in Austria, una volta al mese. È certo. No, ma per carità. Scusa, cosa sta dicendo di sbagliato, Carmine? Ma qual è il problema? Io vorrei dire a Parenzo, cioè, tu dimmi una cosa, ma cioè, qual è? Devo andare in chiesa? Devo andare a pregare? Ragazzi, questa è l'unica trasmissione al mondo in cui si fa passare per normale dicendo anche

Oh, oh, eravamo con Carmine da Roma, dunque. No, ma tu immaginati questo, ma in questo momento. Scusa, aspetta, aspetta, infatti, Carmine, aspetta, scusa, ho sbagliato, Carmine, no. Scusi, infatti però le chiedo scusa perché sono stato eccessivo, Carmine. Aggredire. Ma tu mi dici però... stronzo perché ci conosciamo. Sì. No, è vero, non sei uno stronzo. Io non no, ho detto, ti chiedo scusa, è vero, sei laureato, anche tu una creatura di Dio, ti chiedo scusa, infatti. Una creatura venuta molto male, ma pur sempre una creatura di Dio. Allora, ti chiedo scusa. Aspetta, aspetta, però, voglio dire solo questo. Aspetta, Carmine, aspetta. Carmine, scusa, creatura di Dio venuta male, ma creatura di Dio, ascoltami. Venuta in questo male, momento molto male. Sei tu che sei venuto male, non io. Allora, a in me questo regna, che c'è di male? In questo momento al Quirinale, il presidente della Repubblica Mattarella sta ricevendo squinzi e il presidente Boggi. È un handicappato, ma stai si è zitto! Mi stai sembra zitto! Una mummia, mi sembra. In questo momento, parli? Allora, la cosa che mi napolitana, la cosa che più mi terrorizza è questa, perché al Quirinale in questo momento c'è questo passaggio simbolico di consegne tra l'ex presidente. Stai zitto un attimo. Aspetta. E il presidente Boccia. Non gli interessa. Secondo me, bevendo, a un certo punto stanno Aspetta. Secondo ascolta, me, in questo momento, a un certo punto, il presidente Mattarella ha detto: comunque, vi volevo ringraziare perché avete un bel giornale e c'è una straordinaria radio. Esatto. E probabilmente i due presidenti hanno detto: presidente, ci farebbe molto piacere farle sentire in questo momento che cosa va in onda. Mattarella dice: certo, perché quello anche il vostro è servizio pubblico, dice. Accendono al Quirinale tutti e due, tutti e tre davanti al caminetto, su così la radio e sentono caminetto. Questa creatura di Dio venuta male, Carmine da Roma. Ma quale minchia di caminetto? Ma quale caminetto? Tu devi sapere che io mattina mi sveglio agitato. Questo si capisce. Io tutte le mattine a 44 anni, la prima cosa che penso è a figli, perché è una cosa meravigliosa. A cosa pensa, professore? Scusi. In essere. Ma scusa, è malato, cosa, dai, è un malato, è un malato. Ma non sono malato. Ma perché deve essere malato? Male. Ma scusa, amico mio, ma se malato, pensa la mattina e la sera a quella roba lì, lascialo pensare in tranquillità. Non è normale che lo dica così. Questo ma lo vuole riferire. Un culo così. Io lavoro 13 ore al giorno, non come a te che è un panaminchia. Io lavoro 13 ore al giorno, faccio 30.000 chilometri ogni 4 mesi. Quindi non mi rompere coglioni, io mi sveglio 6. Non mi rompere coglioni. Ragione. Lavoro, e vuole andare capito? In Austria e tutti i locali di prostitute totale. In Austria, lasciala andare in tutti questi locali. Me ne frega niente, a me me ne frega niente. Io arrivo là, 4. Ma vieni pure 4, tu alla 5. Marcia o no? Te ne fai 4-5 una sera? Sì, è certo. Ma che sei una bestia, sei. 100%. Possiamo andare insieme, senza problemi. Andremo, sicuramente. No, però anche la marcia devi venire, però. Tu sei un rappresentante fondamentale. La marcia, Giuseppe. No, la facciamo, la marcia dei peccatori. La marcia dei peccatori. No, e falla, Giuseppe. Allora il numero mio ce l'avete, mi devi chiamare, Giuseppe. La marcia dei peccatori. Io voglio dire questo. Ma perché tra Carmine da Roma... No, ma peccatori in senso buono, siamo tutti peccatori. Oltre a Carmine da Roma, c'è un'altra parte di paese... Ma pure quelle che vanno in chiesa sono peccatori. Quelle che vanno guarda, in chiesa sono peccatori. Il mondo non è Carmine. Tu devi sapere Roma. Che se io nasco un'altra volta, io non voglio né battesimo né cresima né comunione, tutte queste minchiate. Io ho visto una foto mia con grembiule la comunione, qua con lana d'oro, quei foto tutto mamma. Agitato che invece, ma dico, ma che minchia è sto schifo? Ma che è sta cosa? Mamma, a cresima, mamma. Comunione, un prete che mi metta a mano in destra, ma io a mano in destra non la voglio mettere, io voglio solamente andare là. E gustarmi tutte le signorine ogni volta trovo maiale, delle dai, nuove maniaco, gli ultimi aggiornamenti no non sono maniaco no, non scattare la mente non sono maniaco è numero uno e cos'è? Ma io non so e che ma cos'è? Che sta dicendo? Ma guarda one. Che non e ne che dico cos'è? Cazzate io arrivo là non so, io so, mi gusto tutti gli ultimi mi aggiornamenti mi gusto già guardo maiale, sul maiale, sito maiale. Guarda sul sito gli aggiornamenti giusto maiale malato ma sul sito guardi anche le notizie guardi anche cosa succede nel mondo ogni tanto no vada su un sito a vedere cosa cambia nel mondo fermi tutti Carmine un abbraccio Carmine italiani svegliatevi stiamo sprofondando nella merda la zanzara oh Cruciani ma Mauro da Mantova non chiama più contattatelo perché io sono un po' preoccupato sinceramente. Guarda sarei preoccupato ma mi manda un sacco di messaggi su WhatsApp Maurone Il vero problema è che si è fissato su sta storia degli ebrei, che sarebbero colpevoli delle peggiori nefandezze mondiali. Non solo va bene, cioè ognuno può dire quello che vuole qui alla Zanzara, solo l'ha detto talmente tante volte qui alla Zanzara da risultare praticamente inutile. Cioè, se vuoi chiama Mauro, non è un problema, però ti metti a parlare della solita cosa, il complotto ebraico sul mondo, eccetera, amico mio, dai, su. Allora, a Roma, tra i candidati romani, c'è una nostra amica barra nemica con cui abbiamo fatto grandi battaglie, caro Palenzo. Devo dirti la verità, fosse eletta al Consiglio Comunale, beh, la cosa non mi dispiacerebbe, devo dire la verità, non mi dispiacerebbe. È un endorsement. No, il tuo. Un endorsement no, perché io non so chi voterei a Roma, per fortuna voto a Milano. Però se fosse eletta, un po' ci divertiremo, almeno ci divertiamo, perché vuole una Roma vegana. Io l'ho detto per chi vota. Vuole una Roma, no, non lo dire più. Vuole una, no, no, perché siamo in un periodo strano, dai. Cioè non si può dire? No, per Giachetti sì, no, i candidati no. Siamo in un periodo... posso dire l'altro nome. No, non rompere le balle del ragazzo nome. No, non lo dire più, dai. No, vabbè, ok, gli distruggono il comitato quelli della mafia, no, e tu oddio, dici va bene, abbiamo capito. Comunque, vuole una, questa candidata qui vuole una Roma vegana. Ora, cosa significa una Roma vegana? Andiamo a chiudere le macellerie. Tanto la conosciamo, hanno fatto grandi battaglie con noi. Beh, sul veganesimo e oltre. Daniela, come stai? Come andiamo? Buonasera a voi. Come ciao, va? Caro. Come va? Ah, abbastanza bene, torno adesso da Milano, pensa. Da Milano, che se ne fa? Siete candidati a Roma e a Milano? Sono andata a Milano a fare una protesta davanti a Prada per l'utilizzo delle pelli di struzzo e con l'organizzazione mondiale più importante appunto del mondo, che è PETA. Sì, PETA, sì, guarda che ci ha rotto le balle anche a noi, sì, PETA, oh? PETA. Sì, anche PETA, a no... PETA UK, in sì, questo caso è quella inglese. Ma adesso pure Prada, che fanno Prada? Che cosa utilizzano? Cioè, ci utilizzano vogliamo... la pelle di struzzo per fare borse, accessori, scarpe, insomma, mi sembra veramente... Tu non hai mai messo qualcosa di pelle addosso? Tu qualche volta una cosa di pelle l'avrei messa addosso? Anche da quando ho deciso di diventare vegano, assolutamente no. Niente, non metti prima nulla di pelle. Attenzione che qualche volta ti beccano a qualche comizio adesso a qualche... No, non metto nulla di pelle perché vorrei che la gente capisse che ci sono moltissime alternative alla pelle di animali, quindi sono pelle sintetiche di svariati materiali, addirittura la fanno. E come si fa sta pelle sintetica? Dell'ananas, insomma, se ne fanno di tante. Sì, però si fa tante. Magari qualche volta si produce, si arriva alla pelle sintetica anche col contributo degli animali, non è mica escluso. Comunque. No, perché la non prevede l'utilizzo di elementi. Senti, animali. Oggi in una trasmissione l'altro giorno, un tizio che è un macellaio che si chiama, poi parliamo di alcune cose che vuoi fare a Roma, tra cui questa cosa interessante, anzi no, parliamo subito. Ma è vero che vuoi eliminare, come si chiamano quelle, Parenzo, quelle i cavalli là, le botticelle, le botticelle. Cioè tu vuoi cancellare le botticelle? Ma per carità, sono una straordinaria. Ma in realtà non sono io che lo voglio, lo vuole la maggior parte dei romani, perché... No, ma detto, questo non si sa se lo voglio la maggior parte dei romani. No, lo posso assicurare. E chi lo dice? Raccolte più di 10.000 firme appunto. Vabbè, appunto, 10.000. Ma che male hanno fatto quelle carrozzelle straordinarie? Ma perché, scusa, spiegami, che hanno fatto male le carrozzelle? Che ma hanno perché fatto? Comunque adesso è una pratica obsoleta che non ha motivo più di esistere. Come in obsoleta? Una città trafficata con lo smog che c'è a Roma. Ma bellissimo invece. Anzi, questi cavalli devono subire non inquinano. Stupendo. Ma non è quello, è discorso. Io vorrei venire, nuovo è contratto che faccio con Sole 24 ore, io voglio venire con la carrozzella Sole 24 ore. Giuseppe, se mi fai parlare, allora io, se tu mi chiedi una cosa, poi devo parlare. Tranquillo, dimmi, secondo te le botticelle praticamente maltrattano gli animali, sono maltrattati? Ma sai che 41 o 44, adesso non mi ricordo esattamente il numero, sono indagati per maltrattamenti, sì, è uscito qualche giorno fa la notizia. Vabbè, ma ho capito, ma dovrebbe informarsi riguardo questo. Comunque, cioè, gli animali con le carrozze non si possono usare, secondo te? Vengono maltrattati? Assolutamente no, dentro la città ha maggior ragione, perché comunque con lo smog, il caos, il caldo e con 700 kg e oltre che devono sopportare, mi sembra... Ma vivono benissimo sti cavalli con le botticelle, vivono benissimo, vivono come non gli altri... Non vivono per niente benissimo, ti ripeto che te lo ribadisco. E che cosa fanno questi qua? Sono stati indagati per maltrattamento. Vabbè, ma quello chi è stato indagato per maltrattamento è un altro discorso, quello giustamente chi... sono quasi tutti, sono più di 40 persone, insomma... Scusami, ti voglio dire anche un'altra cosa. Queste persone lavorano in nero, non fanno una ricevuta, guadagnano un sacco di soldi. Questo è un altro problema. Quello è un altro discorso. Eliminare le botticelle, che fanno? Che lavoro devono fare questi qua? Che lavoro gli fare? Allora, guarda, l'altro giorno io stavo camminando per Roma con la mia macchina e ho visto accanto a me un'ape. Macchina inquinante? No, era elettrica. Elettrica, madonna. Elettrica, sicuro, che era allestita per portare persone a fare il giro di Roma. Vabbè, allora... in questo Dunque, modo. Che dovrebbero fare queste botticelle? Al posto di fare le botticelle, questi qua che fanno? Appunto, ti posso dire, ti possono convertire comunque, convertire a che? Al cristianesimo? Le tasse, o comunque ci sono queste altre forme. Ma dai, ma è come togliere la gondola a Venezia, ragazzi, ma è come togliere la gondoletta a Venezia, ma non è possibile. No, non è la gondoletta a Venezia, ma è insomma, il gondolaro, come si chiama, non so come si chiama, gondoliere. Decide autonomamente di fare questo mestiere. E lì anche i cavalli che devono fare, cavalcare, no? Che dovremmo chiedere ai cavalli se vogliono, non ho capito. Come facciamo a chiedere ai cavalli se vogliono? È un po' difficile. Ma che scherziamo? Gli piaccia insomma, scarrozzare, tenere più di 800 kg su. Ma non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere. Al traffico, al caos, ti dico la verità, io tu non vivi più a Roma, Cruciani. No, non vivo più a Roma. Centro storico mi sento male, già io sì, però, camminare. Cioè tu dici cavalli in mezzo alle macchine, comunque. Dici cavalli in mezzo alle macchine, comunque non va bene. Posso dire una cosa, dimmi. Tutti i sindaci, i candidati sindaci vogliono eliminare le botticelle. Sono d'accordo nel sei sicuro che Giachetti vuole eliminare le botticelle, siamo sicuri? Tutti, hanno sottoscritto perché l'associazione animaliste hanno sottoposto ai vari sindaci. Vabbè, ho capito. Senti, Daniela, ti voglio chiedere una cosa. Ma tu ti candidi con Giachetti? Ma Giachetti mi pare che mangia la carne, è un carnivoro. Io conosco bene Roberto. Io non mi candido con Giachetti, io mi sono candidata con i Verdi. Però i Verdi sostengono Giachetti. Tu sostieni Giachetti. Ho capito, ma quello è carnivoro. Io mi candido con i Verdi. Io parlo per me. Il tuo candidato sindaco è un carnivoro. Il tuo candidato sindaco. Può diventare sempre vegano. Comunque il mio programma prevede. Cioè vogliamo far diventare vegano Giachetti. Questo è il tuo obiettivo. Questo è interessante. Potrebbe diventarlo. Comunque l'importante è fare informazione. Allora l'importante sono le persone Lasciandolo all'interno delle Giachetti. Giunte e quindi i consiglieri sono fondamentali. Cioè più speriamo. Ho capito, ma non basta una vegana se viene eletta. Cioè il sindaco vegano sarebbe. C'è uno che mi scrive. Un amico che è candidato con Bene Verdi, allora, che si chiama Rinaldo Sidoli, che è comunque Daniela della, diciamo la verità, ci vorrebbe un sindaco vegano a Roma, cioè fosse vegano sarebbe io meglio, lo spiegherei chiaramente, sindaco, sì, cioè Giachetti certo, diventa vegano, diciamoglielo a Giachetti, diventi vegano, sì, mi piacerebbe molto comunque, piacerebbe se molto. Più diventasse vegano, perché questo sarebbe di male, però comunque, tu insomma, sei candidata in mezzo a un sacco di carnivori, amica mia, sia nella lista, allora, dove io sei, io vivo in mezzo ai carnivori, cioè tu dici devi sopportare non, anche non questo, non li chiamiamo più carnivori, li chiamiamo carnisti. Carnisti, non è carnisti. Più carnivoro, perché? Termine, che vuol dire carnista? Cioè quello che appunto mangia cadaveri, alimentarsi di carne, perché il carnivoro è il predatore, bisogna fare una distinzione. Ma bisogna chiamare carnisti, tigri, interessante. Leoni. Noi non siamo predatori, vogliamo ancora illuderci che siamo predatori. Noi siamo carnisti, noi siamo carnisti, noi ancora siamo indietro nell'evoluzione, Parenzo. Quindi noi siamo quello che voglio dire è che però se posso poi parlare del mio programma. No, vabbè, adesso lei non esageriamo. È circondata da assassini, cara Martani. Ma stiamo pagando. Io non voglio veganizzare Roma, io voglio semplicemente che intanto venga inserita l'opzione vegana e vegetariana all'interno delle mense. Un giorno obbligatorio di veganesimo. L'opzione ci deve essere. Cioè un'opzione lasciamo perdere, quella è un giorno obbligatorio. Anche, magari io. Ma come un giorno obbligatorio? Cioè i bambini di Parenzo, per esempio, un giorno obbligati a mangiare Parenzo, obbligati a mangiare vegano. Ma farebbe molto bene, te lo posso assicurare. Parenzo, preparati. Cara un Martani, giorno obbligatorio. Grazie molte, ma la dieta obbligatoria non la decide per fortuna non la Martani. Non è questione di obbligatorietà, io parlo di beh, tu dici un giorno. No, però tu dici un giorno obbligatorio di veganismo nelle scuole di menù. Ma allora il veganesimo sai di cosa si intende? Un piatto di pasta e fagioli, un piatto di riso e lenticchie. Va bene, già c'è, cioè, c'è già, guardi, cioè, non si preoccupi. Non è che mi ho capito, così. C'è la già, c'è già. Quella che noi decantiamo tanto, in realtà prevede questo, capito? Comunque la ragazzi, la dieta mediterranea prevede cereali, legumi, frutta e verdura. E anche un bel pesce, un bel filetto ogni tanto, esatto, su, ragazzi, dai. Una volta a settimana, una o due volte a settimana, un filetto al pepe verde, ragazzi, ma stiamo scherzando davvero. Oh. Dai, su. No, io infatti sto parlando di opzione, non sto no, tu hai detto un giorno nelle scuole bisognerebbe dedicarlo ai vegani, cioè obbligatorio pazzesco. Un giorno mangiare vegano in una scuola. Ma io non ho detto questo, ho detto l'opzione. Ho letto, l'ho letto. Non mettere in bocca cose che non dico perché non è senti così. Daniele, una cosa, l'altro giorno ho visto Cecchini, quello il macellaio, no? È un macellaio famosissimo, sì. Fiorentino, si chiama Cecchini, uh-huh. Che ha detto una cosa interessante, cioè se gli animali, sono... sentiamolo però Cecchini, è interessante, senti Cecchini. Io dico... che la carne d'animali felici, e forse i vegani strilleranno, cioè animali che hanno spazi liberi, cibo buono, sì. Che hanno una buona vita, come quella animali si sogna contenti, tutti, contenti. E che hanno una morte sì. compassionevoli, senza... Sì. Ecco, mucche felici, animali felici, sì. Sì. Hanno una carne migliore, sì. non sì. solo di qualità, sì. ma anche di salute. Capito? capito? Ah, sì, ma il signor Cecchini l'ha detto che lui ha avuto un tumore e l'hanno ripreso per i capelli? Lo sapevate perché, questa cosa? E che c'entra, scusa, non ho capito. C'entra, perché il signor Cecchini, che si mangia carne dalla mattina alla sera, ha rischiato di morire e l'hanno ripreso veramente per i capelli. Questa cosa lui non la dice, chiaramente non la pubblicizza, ve lo dico io. Questa è un'informazione privata di Cecchini. Su internet si trovano anche queste notizie. Siccome la carne è cancerogena, l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e non l'ha detto il Peragottaro sotto casa. No, non ha detto questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non diciamo stupidaggi, non ha detto questo, non ha detto questo. Assolutamente questo, se poi voi la volete girare come vi pare. Non ha detto questo, non ha detto questo. No, non ha detto questo. È uno degli elementi che possono provocare dipende dal consumo, da un sacco di quelli che fumano prenderanno il cancro. Ma tu vuoi proibire la vendita della carne? Tu vuoi proibire la vendita della carne? La proibiresti? Dimmi la verità. Ma dimmela tutta la verità. Non fare la timida. Non fare allora, non mi fare queste domande tendenziose. Ma che tendenziose? È una domanda chiara. La proibiresti o no? Non ti rispondo a questa cosa. Perché le persone. Vabbè, l'informazione per quello che ti riguarda va benissimo. La proibiresti formate. Sì o no? L'uso non ti rispondo. I macellai vanno chiusi o no? La carne è cancerogena, chiaro? Non è vero, allora, non è così. A parte che hai dato un'informazione che riguarda Cecchini, tu hai detto primo sensibile, che ha avuto il cancro, secondo che il cancro è colpa della carne. Ma che cazzo dici? Beh, sì, perché non lo sai che la carne, soprattutto quella lavorata, quindi parliamo di quelle. Ma che c'entra Cecchini? Scusa, ma stai dicendo una cosa gravissima. Aumenta più del 50% la possibilità di avere un tumore al collo. Sensibile. Ho capito, ma stai dicendo riservato che se è vero, io non lo so, che lei ha diffuso impunemente davanti a 2,5 milioni di spettatori, di ascoltatori e più. Molto grave questo, perché sarebbe è molto grave. Ma non me ne frega niente di internet, che cazzo me ne frega di internet. Se io dicessi che Cruciani ha avuto problemi alle emorroidi e adesso non volevo dirlo. Non volevo dirlo. Un articolo dove lui fa un'intervista in cui rivela questo, non è una cosa. Questo privata, è un altro discorso. Questo è un altro discorso. L'ha detto lui pubblicamente. È un conto. Ma tu stai dicendo lui ha preso un cancro per colpa della carne? Ma di che stai parlando? Ha preso un cancro al colon. Mi sembra che la prossima, adesso non mi ricordo. Ma che sei un medico? Mo ha preso un cancro per colpa della carne? Gli oncologi dicono questo, io mi fido degli oncologi. Ma gli oncologi non lo dicono. Non mi fido dei macellari e non mi fido nemmeno di chi produce e vende. Dei macellai non ti fidi, cioè i macellai secondo te devono chiudere o no? Devono chiudere. Mi fido no? dei medici che mi dicono questo. Non è vero, non lo dicono questo. I macellai devono chiudere o no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità piuttosto che di un. Ma i macellai devono chiudere o no secondo te? Allora, io andrebbero chiusi o no? Cruciani, io tanto una domanda, ma mi vuoi conoscere quanto vuoi? Io ti faccio una domanda e non rispondi, vabbè, d'accordo. Non mi fare queste domande, e non vuoi rispondere, vabbè. Con queste domande mi vuoi far apparire vegani. Ma figurati, ti sto chiedendo, fosse per te. Che ma i macellai si chiudono e non rispondi, allora, vabbè, prendiamo atto che non vuoi rispondere, va bene. Possiamo parlare, possiamo passare oltre. No, passare oltre, adesso le domande le facciamo noi, dai. I macellai romani possono stare tranquilli? Possono stare tranquilli o no? Ma in che senso? Se vieni eletta a Roma, possono stare tranquilli o no? Daresti nuove licenze? Ecco, no, diciamola così, veramente seria. Daresti nuove licenze? Arriva a Cruciani, dice voglio fare il macellaio. Voglio aprire una macelleria. Bisogna ridurre le licenze a macellai? Che bisogna oppure fare? Aumentarle. Ma guarda, non c'è bisogno di fare questo, perché siccome moltissimi stanno prendendo coscienza in merito a questo tema, per fortuna, e quindi daresti incentivi per trasformarlo. Si estingueranno, si estingueranno da soli. Non dovevate parlare, scusate. Si estingueranno. Incentivi per trasformarle. Non alimentarsi più di sofferenze e morte, sono tantissime. Ogni giorno aumentano. Si estingueranno da soli. Si estingueranno da soli. Le macellerie chiuderanno e apriranno più frutterie e noi saremo molto disperati. Quindi daresti degli daresti degli incentivi per aprire delle frutterie piuttosto che delle macellerie? Incentivi non è più bello vedere frutta colorata piuttosto fresca, che il rosso e verdura, piuttosto che il sangue, piuttosto che dei pezzi di cadavere su un bancone. Beh, esteticamente mi intriga molto di più. De gustibus non disputandum est. Senti, è successo un caso particolare a Roma di un uccello. A me piace la Bartani, è una bella donna, questo bisogna dirlo. Questo non c'è dubbio, è un po' in faccia un po' di brufoletti recentemente. L'ho visto solo in foto, ma mi sembra molto carina, molto carina, non c'è dubbio. Ma questo che c'entra? Adesso se tu introdurre questo argomento non c'entra niente. L'ho detto a passano. Cioè, c'è un corvo oggi, non so che animale, che è picchiato sulla testa all'euro di una signora. Non so se hai visto. Dramma. Beh, no, una cosa grave è successa. Non l'ho letto da nessuna parte. Sì, c'è un animale. No, ma ti assicuro, guarda, un animale che è andato, non mi ricordo che cos'era, è picchiato, questa qua è andata in ospedale, un animale, un corvo. Vabbè, sai quante persone lo fanno agli animali queste cose. Ho capito, però, insomma, gli animali ogni tanto possono essere pericolosi, cioè, ma anche... insomma, secondo me la specie più pericolosa in assoluto è l'essere umano. La terra è l'uomo. È l'essere umano, insomma, lo vuoi negare questo? Cioè, sono molto più pericolosi gli animali, gli uomini degli animali. Cioè, tu sei per l'estinzione dell'essere umano. Ma io non sono per l'estinzione dell'essere umano, io vorrei sono per una presa di coscienza dell'essere umano, cioè fino a quando continueremo ad uccidere ci faremo la guerra anche tra di noi. Senti, ma i topi, il problema dei topi a Roma come li risolviamo? Ecco, lo sapevo che tanto me la facevi. No, vabbè, alla fine la posso pure fare. I topi, quelli ci sono. I topi, come li risolviamo? Li ammazziamo in maniera normale, li sterminiamo oppure no? Io li sterminerei. Tu che cosa fai? Ti metti col flauto? Col flautino? A tirarli fuori dalla città col flauto? Che facciamo? Ci sono delle modalità di sterilizzazione anche per i topi, te lo posso assicurare. Di sterilizzazione? Sì, renderli. Ah, questo è interessante. Cioè, praticamente. Comunque, no, Cruciani, devi sapere. Rendere sterili i topi. No, io questo non l'ho mai sentita. Rendere sterili i topi. Cioè, praticamente in modo che non si riproducono. Ci sono, c'è questa possibilità. Però cioè, devo dire che il problema dei topi. Castrare i topi. Le metropoli del mondo, Londra, New York. Beh, li ammazzano anche. Ogni tanto li ammazzano. E ti volevo dire questo. Per quanto riguarda Bloomberg, il sindaco di New York, disse, a un certo punto disse: vabbè, ragazzi, siccome noi non riusciamo ad ammazzarli tutti, chiaramente. Ce lo dobbiamo fare una ragione, ce li teniamo, perché insomma non è che possiamo eliminare dalla faccia della terra tutto. No, però ammazzare più possibile dopo. Se tu c'hai di fronte un topo a casa tua, che fai? Che fai? Ma io no, sinceramente il topo a casa mia non è mai entrato. Vabbè, mettiamo che c'è un topo davanti, che fai? Non ammazzi, non c'è chi di ammazzarlo, no? Ma io guarda, quello che io sinceramente, che fai concretamente? Un topo a casa tua? L'azione che io cerco di fare sempre è di farli uscire e mandarli via. Gentilmente. Quello che diciamo, mi entra in casa, che io non ho questo. Farli uscire gentilmente, chiedendo di uscire. Questo istinto di uccidere. Comunque le modalità ci sono. Senza però che la castrazione dei topi. Tutto quello che non si sta bene, tutto quello che ci dà fastidio. La castrazione dei topi. Se lo dovessimo applicare alle persone. C'è gente che vuole mettere le zanzare. C'è gente che vuole. Beh, oddio, le persone e gli animali sono una cosa diversa. Noi dobbiamo imparare ma le zanzariere si possono mettere le zanzariere specie. No, voglio dire che noi dobbiamo imparare a convivere anche con le altre specie, ma non coi topi. Però io non voglio convivere coi topi, amica mia, non voglio convivere coi topi. Questo né con le zanzare, c'è gente che pensa di mettere le zanzariere. Vanno usate o no? Ma questo certo. È il punto, quelle sì, che bruciano vanno usate, quelle elettriche. Quelle elettriche che bruciano tutte le zanzare si possono usare? Quello lo trovo allucinante, però la zanzariera è sufficiente. Comunque insomma, cioè quelli che ammazzano le zanzare, che bruciano le zanzare, non va bene. Vabbè, ma scusami, vabbè, ragazzi, ciao, faccio stupidaggini, dai, su, ti abbraccio, Daniele. Fai la persona seria, ti abbraccio, tu, Daniele, dai. Ciao, te ciao, prego. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh. La zanzara. Oggi in onore della zanzara, signore, ho pisciato nel lavandino. Ciao Cruciani. Il mondo si divide in due parti: chi piscia sotto la doccia e chi dice le bugie. Pensavo di essere l'unico, e invece no. Lavandino forever. Cruciani, Parenzo, pisciare nel lavandino è una cosa normalissima. Basta avere una piccola accortezza, cioè ci si posiziona, si fa scorrere l'acqua del rubinetto e si indirizza il getto proprio in corrispondenza dell'acqua del rubinetto, così si evita che gli schizzi di pipì vadano dappertutto. È un metodo funzionante e pulitissimo. Pisciare nel lavandino è una cosa normalissima, anzi è pure ecosostenibile, perché ogni volta non tiri lo sciacquone, che sono almeno 5 litri d'acqua, apri il rubinetto, va giù un po' d'acqua, non è sporcato, non hai risparmiato risorse, pure Blair quando stava a Westminster non tirava lo sciacquone dopo averlo fatto per non consumare acqua, questo è un altro modo di risparmiare. Parenzo, sei un po' invidioso di quelli che fanno pipì nel lavandino perché tu non ci arrivi. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. La zanzara. Segreteria telefonica. Mi sono dimenticato di chiedere una cosa alla Martani, eh? Cosa fondamentale, perché ieri mi sono incazzato per una cosa solo che mi è sfuggita. L'Alzheimer incombe. Richiamala. La stavo richiamando, sì, ma non risponde. Mirko da Parma, vai Mirko. Ciao Cruciani. Dimmi Mirko, dimmi. Ascolta, io chiamavo perché riguardo sempre al discorso, sai, tutti vogliono fare gli artisti, quindi io ho studiato tanti anni, ho fatto rischiato la vita nel terremoto dell'Aquila, cerco di fare il videomaker, no? Sì, allora? Il problema qual è? Che l'unico lavoro che sono riuscito a fare è il porno. Cioè, il porno in che senso? Che hai fatto? L'attore? No, regista. Ho fatto il videomaker, sì, il regista di film porno. Ma regista, come ti chiami in nome d'arte? Oppure magari usi il tuo cognome? Posso non dirtelo? Ma che sai che ti fai? Ti vergogni, scusa? Ma che cazzo me ne frega? Mi chiamo Miked Cash come regista. Come non ti è chiami? Il mio vero nome, naturalmente. Miked Cash. Miked? Sì, Miked. Ok, allora, qual è il problema? Che dopo 3 anni... Ma non ho capito, ti vergogni di questa roba qua? Cioè, non vorresti fare altro? Ma a parte che mi vergogno profondamente, perché... Aspetta un attimo, che è interessante però, perché volevo chiedere una cosa. Daniela, ci sei o no? Sì. Scusami Daniela, però io ieri mi sono incazzato come una belva, stiamo parlando di nuovo con Daniela Martani, perché tu mi hai attribuito, cioè mi hai detto che sono praticamente il mandante di quelli che hanno ammazzato tutti quegli animali a spina. Che sei il mandante. Beh sì, hai creato, cioè la colpa di questi qua è che è dalla campagna di odio contro gli animali e gli animalisti, ma che parli, sei impazzita, sei... Cioè mi hai attribuito le responsabilità morali, come si faceva al tempo del terrorismo, di quelli che hanno ammazzato 100 animali, cosa che io condanno in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi piace che tu lo dica. Ma ho capito, allora, ma è chiaro che condanno, scusa, ti pare normale che io possa approvare il gesto di chi va a ammazzare 100 animali? Io ti ricordo, Giuseppe, che purtroppo dopo che le tue esternazioni contro gli agnelli, eccetera, eccetera, a me hanno cominciato a mandare foto di animali sgozzati. Ma che c'entro io? La testa tagliata, no, perché ti... Ma che ho mai mandato una foto con un animale sgozzato? Tu devi però capire che c'è una parte del pubblico che le tue parole le travisa, magari. No, ma non mi interessa a me. Se uno ti manda una foto di un animale sgozzato, perché è semplicemente un coglione, punto e basta. Ma cosa c'entra? Mi piace che tu lo possa dire questa cosa, perché purtroppo... No, Daniela, però scusami, no, tu mi fai... C'è gente che... Io non rispondo di quello... Scusa, ma tu hai detto un'altra cosa però, che io sono, praticamente ho istigato con le mie parole, secondo te, di odio nei confronti degli animali, mai pronunciate peraltro. Ma non è che tu comunque... una campagna di odio e dunque sarei stato l'ispiratore... d'amore nei confronti degli animali. Ma che dici, al contrario? Valgono come una pietra, dici che... No, per me gli animali valgono meno degli esseri umani, su questo non c'è dubbio. No, un conto è dire che valgono meno degli esseri umani, un conto è dire che se ne frega della loro sofferenza. Non ho detto affatto che me ne frego della sofferenza, ho detto che è inevitabile in un mondo in cui ci si nutre di carne, la sofferenza degli animali è inevitabile. Certamente non penso alla sofferenza degli animali, su questo non c'è dubbio, ma cosa c'entra questo con quelli che hanno ammazzato 100 animali? Perché tu devi capire che c'è tanta gente, purtroppo, scusami... Ma non c'entra niente con le parole che ho detto! Che non capisce le parole che dici tu e quindi si sente autorizzata invece a fare ad andare animali, perché tanto comunque loro la pensano, cioè magari travisano le tue parole... Ma non è vero, ma se ne fottono di quello che dico, dai, non smettila di dire stronzate. Senti, una cosa, ma è vero che i vegani lo fanno meglio, cioè che scopano meglio o no? No, ma questo sono sempre stato curioso, ma secondo te è vera questa cosa qua o no? Perché dicono vegans do it better, ma è vero o no? In realtà si parla di una questione chiaramente tutta legata a... No, ma secondo te che sei vegana? La circolazione sanguigna, siccome appunto non ingerendo grassi animali che poi vanno a costruire le arterie, il sangue difluisce meglio, capisci? E dunque? Capisci allora, quindi... Ah, nell'uomo è un effetto Viagra praticamente, esatto, il veganesimo. Esattamente. Cioè, capito? E nelle donne invece? Cioè si sentono meglio a... Tu lo fai meglio da quando sei vegano o no? Questo voglio capire. Il mio amico Martelli mi scrive... No, io non ho detto quanto lo fai, tu se lo fai meglio o peggio? No, io non ti rispondo a questa cosa, però ti posso sicuramente dire che... lo si fa meglio. Mangiare cruelty free, quindi ti mantiene più giovane e più in forma. E dunque lo fai meglio, lo fai meglio. Non ti dico. Ma è una cosa che volevo risolvere. Prima o poi qualcuno me lo dirà, siccome ci sono persone che me lo dicono. Non ti dico le mie esperienze personali. No, le tue, sì. Che meraviglia. Vabbè, ragazzi, non mi vuole dire le sue esperienze personali. Se lo fa meglio da quando è vegano. Ma prova, scusami, a questo punto fai una prova. Ma anche la prova, io non so. Dice diventare un po' vegano, fare la prova, eccetera. E vedi un po' quali sono i risultati. È troppo lunga la cosa. Vabbè, ciao Daniele, ciao. Mirko, allora che mi dicevi, Mirko? Non ho capito. Ti vergogni di essere regista porno? Perché ti vergogni? Non mi vergogno di essere un regista porno, ma semplicemente mi vergogno di lavorare e prendere un decimo di quello che prende una che prende dei gran cazzi. Vabbè, ma ho capito. Scusami, mi hai un po' sorpreso con questa cosa qua. Cioè, mi vergogno di aver studiato per niente. Perché, cioè, hai quasi una voce da Rocco, sembri una voce, hai una voce simile a quella di Rocco. Però, Mirko, scusa, prendi molto meno di una che, come dici te, prende dei gran cazzi. Ma quello è normale, le attrici porno prendono più dei registi, di alcuni registi almeno. Quello mi pare scontato. Sembra normale a te. Fanno anche un lavoro un po' più faticoso, diciamo, un po' più... Ma come non è vero. Lavorano 4 ore al giorno, io lavoro 40 ore a settimana. Vabbè, ho capito, 4 ore al giorno però sono impegnative, amico mio, no? Cioè... Ma guarda, secondo me... come dire, tu fai lo stesso, tu fai lo stesso... No, ma cioè, ma tu fai lo stesso lavoro di chi lo prende in culo? Scusami, tu fai lo stesso lavoro di chi lo prende nel sedere? Cioè, dalla mattina... Da un certo punto di vista sì, Cruciani. E continueremo questa augusta conversazione, Parenzo, che riguarda il mondo del lavoro giovanile, in realtà. Sì, non è esattamente questo. Tra qualche istante dopo la pubblicità. Oh, meno male. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Amici miei, sono in macchina, guido e mi condraggo, se si può dire, il perineo. Professor Bossi, sei un mito. Condraggo il perineo. Sull'autostrada. Parenzo, mi raccomando, il perineo, ben contragga. Sono un imprenditore, sono in macchina e sto contraendo il perineo. Sono in macchina in coda e sto contraendo il perineo. Come godo. Amici miei, sto contraendo il perineo. Sto in macchina in mezzo al traffico. Però mi piace. Parenzo, sto contraendo il perineo pensando a Natania. Che spettacolo! Ciao, anch'io quando guido i bus a Genova contraggo il perineo. Sì, Cruciani, ho messo in atto i consigli del sessuologo, comunque aveva ragione. Ho fatto schioccare il glande facendo una massima estrazione e una minima penetrazione e la mia ragazza ha urlato per 10 minuti di fila. Ciao Cruciani, sono la ragazza e ti confermo quello che ha detto. Insomma, all'inizio era un po' fastidioso, ma poi è esploso tutto. Le grandi inchieste della Zanzara. Sono allibito. Cioè, ho la salivazione azzerata, non ho parole, quello che dice a me che è contrario il perineo, che me ne frega a me, che lo rivendica in autostrada, in macchina, e quell'altro che dice che l'ha fatto pensando, non parliamo di quello che ha detto. Poi la fidanzata che dice sì, confermo tutto, come fosse sì, una notizia, dice no, ho letto oggi che c'è la Obama è andato in Vietnam, sì, confermo tutto, come fosse... Ragazzi miei, è un mondo parallelo di pazzi questo qua. Ma quale non mondo è parallelo? Normale, è uno il mondo che della contrae realtà. Il perineo però... in macchina. Ma no, è normalissimo. Perché il professor Bossi, nostro nume tutelare, assolutamente schifo, nume tutelare, ci consiglia di fare... Ma perché maiale? Ci consiglia maiale. E maiale è anche quella signora lì, quella ragazza che dice Cruciani, confermo tutto, è vero, è stato un po' difficile all'inizio. Ragazzi, ma l'intimità di una cosa, di un'esperienza, ma è tutto, è una porcheria. Guarda, mezzo ragione di noi. Mi sa che ha ragione di noi. No. Mandatemelo quello. A voi piace un mondo così? vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, un mondo così fa cagare. A me piace tantissimo, ma eravamo al telefono con una persona molto importante, Miket Cash, in arte Miket Cash, Mirko da Parma, che è un regista porno. Tra l'altro mi segnalano delle persone molto brave, tra cui il mitologico Marco Aquilani, che il signor Miket Cash è autore di una porno saga, potremmo dire così, caro sì, Mirko, dal titolo Carnivorus. Carnivorus porno saga. Beh, sì, la porno saga, porno saga, cosa la possiamo chiamare della storia saga del porno horror, una saga porno horror che si chiama Carnivorus, una roba che protagonista alla Luana, no, Luna Cara, Luna Cara, Luna Oara, come cazzo si chiama questa qua? Luna Oara. Luna Oara e Luca Ferrero, anche questi nomi d'arte che sono gli attori porno. In cosa consiste la trama di Carnivorus? Importante la trama. Caro Miket Cash. La trama è la storia di un pazzo che va a puttane e poi se le mangia. Ah, così, cioè, ma Carnivorus, pensavo che ci fosse di mezzo il cibo, invece no, invece è uno che va a puttane e poi se le mangia. Esatto. Per cui c'è una trama in questo film, Carnivorus. Parezzo, potresti vederlo. C'è ma no, non mancherò, con tutti i film che ho da vedere, sicuramente nella top Carnivorus. 5, diciamo. Meraviglioso, Carnivorus. Però adesso... Parenzo, io, cioè, secondo te, io dopo 15 anni di cinema vero, volevo fare Carnivorus o volevo fare del cinema vero? Vabbè, adesso mi chiedo, non ti lamentare, amico quello mio. Sai fare, io leggo che effettivamente il cinema porno non tira. È di ieri la notizia che la paga media per un'attrice di $1,000 in America, con certe pratiche anali arriva anche a 2005, un porno gay 1,500, un attore ancora meno, $500-600 a film praticamente. I registi invece quanto guadagnano? Ma si parla dai 200-300, si arriva a un massimo di €500 a film. Tu in quanto guadagni tu all'anno facendo il cinema porno? Ah, cosa posso guadagnare? 2000 euro, 3000 euro l'anno? Vabbè, ho capito, ma come cazzo fai a campare 2-3 mila euro l'anno? Scusami. Appunto. Che devi fare teatro? Che fai? Il gigolò? Che fai? Ma quale gigolò? No. Che fai del resto? 3000 euro l'anno per fare i film? Come fai a campare il resto del... Ah no, faccio anche degli altri lavori. Ho un secondo lavoro come proiezionista in un cinema. Ok. A tempo perso. No, certo. Ho capito, ma di chi è la colpa? Non dare la colpa a qualcun altro, amico mio. Hai voluto fare l'artista. Hai voluto fare il regista. Che ho iniziato a farlo. Hai voluto fare il regista. Ma i suoi genitori cosa dicono della sua professione, ad esempio? Ma i miei genitori, pur di non vedermi per strada, accettano anche questo. Hanno visto Carnivorus? No, non hanno visto. Ecco, ti credo, normale. Si sono rifiutati di vedere i film porno. È giusto. D'accordo, ma quello è normale. Mi sembra giusto, normale. Sì, questo ecco, meno male che è normale. Se io fossi mio figlio mi rifiuterei. Ecco, no, ma se dir Cruciani, se no, ma quello, allora, scusa, che ne pensi di Rocco Siffredi? Scusa, perché sputi sul porno, Mirko? Ti fa schifo il porno a te? Ma sì, dici che fa schifo, hai detto che fa schifo, tu. Stai dicendo che il porno era un'altra cosa. Io ho iniziato a lavorare con Mario Salieri. Ragazzi, siamo al top Salieri, siamo al top assoluto. Esatto. Tu lo conosci il professor Salieri? No. Non conosci il professor Salieri? Vabbè, no, ma sei ignorante. Io conosco. Scusa, Miket, digli a Parenzo. Salgari. Sì, ma ho capito, tu conosci Salieri, diciamo un altro Salieri, il musicista. Sì, ma no, Mario Salieri è praticamente una specie di pilastro del film porno italiano. Un'icona. Un'icona assoluta, The Cash, diglielo. Ma io conosco Antonio Salieri, però. No, ma è un'altra cosa. Io non il ho capito bene. Di Antonio Salieri, quali sono forse le cose lui. Peggiori del porno italiano? Rivelami due o tre cose del porno italiano che ti fanno orrore, Miket. È Andrea Di Pre. Vabbè, ma quello non fa mai. Andrea Di Pre è peggio del peggio. Andrea Di Pre è uno degli attori più quotati che c'è in Italia. Addirittura. Sì. Ma come è possibile una cosa del genere? Sì, perché si è trasformato in attore porno. Si è trasformato in attore porno. Sì, ormai fa porno amatoriali per una casa. Cioè, qual è il peggio del peggio? Di Pre è il peggio. Perché il peggio, dici? Perché è squallido, dai. Cioè, beh, io sì, non che mi sia squallido. Salieri perché Salieri faceva arte. Cazzo, fa arte. Ormai non produce più, ma ha sempre fatto cose. E le cose più schifose del cinema porno, del porno oggi, qual è la cosa che ti fa più schifo in assoluto? Le attrici ti fanno schifo? Le attrici? Ma la chirurgia sicuramente è una delle cose più schifose, però... perché le attrici lavorano per rifarsi in continuazione, hanno ormai anche rifanno anche per lavorare, forse, entrambe le cose. Sì, ma credimi che la chirurgia lascia dei segni per svariati anni. Ma non ho capito, e la droga? Ma ma guarda, in Italia sui test non ne gira neanche più di tanta. No, niente. All'estero. E che vorresti fare? Che vorresti fare tu? Che vorresti fare se non fai, cioè, come vorresti cambiare lavoro? Quanti anni hai innanzitutto? Io ho 28 anni. 28 anni, beh, sei giovane allora. Sono, cioè, penso di essere una delle persone più giovani in Italia che fa questo lavoro. E che vorresti fare? Chi è il più bravo innanzitutto? L'attore più bravo in questo momento chi è? Beh, Luca Ferrero, assolutamente. Attore più bravo Luca Ferrero. Adesso lo dici perché ha girato con te, però. No, no, Luca Ferrero, ma non lo dico solo io. E l'attrice? L'attrice più brava chi è? Adesso come adesso, al mondo? No, in Italia, italiana, sempre italiana. Valentina Nappi, assolutamente. Valentina Nappi. È la più brava in assoluto. Sì, sì, sì. Dominante in maniera assoluta. Vabbè, dobbiamo. Il discorso è che, sai, ti ripeto, Cruciani, io avrei voluto fare altro. Eh beh, ho capito, amico mio, però. Ma questa cosa ti stronca, perché se tu vai da certo, una volta che hai fatto il regista di film porno, ormai non torni indietro, su questo non c'è dubbio. Esatto, se tu vai da un produttore e gli dici. Ho capito, ma non è che te l'ha ordinato il dottore, però. Ma non te l'ha ordinato il dottore, però. Ma io devo lavorare in qualche modo, devo farla. Sì, ma per 2-3 mila euro al mese, allora uno ne fa meno, no, amico mio? Se è quello il risultato, 2-3 mila euro al mese, magari trombi pure. È un modo come un altro per arrotondare, però io piuttosto di fare il mio lavoro faccio anche questo. Quale altro titolo hai fatto, oltre Carnivorus? Dammi un titolo. Ho fatto Le puttanelle di Ferrero, ho fatto svariati film, ma non sono film, sono scene di 40 minuti senza niente dentro, cioè con delle grandi cavate. Ma ormai è finito o no? È finito o no? Sì. Finito ormai? Assolutamente no, non è finito, è quello il discorso. Cioè perché c'è internet? Ma sì, ma la gente li compra i film in internet. Sì, cioè, sì, li compra, si abbona. Ci sono degli abbonamenti su determinati siti, tutti abboni e ti guardi. Sì, lo so. Vabbè, amico mio, ti devo lasciare, ti abbraccio, ciao, ci sentiamo ciao, presto, Cruciani. Mi raccomando, raccontaci altre cose. Donato Varese, Donato, vai, scusami, ritardo. Dimmi tutto. Ah, io sono rimasto, rimango sempre, non voglio essere gambe, rimango sempre molto arrabbiato quando quella testa di cazzo che c'è a fianco si scandalizza quando sente parlare di qualcuno che alza la mano con la mano, diciamo, il segno romano, no? Il saluto romano. Ah, il saluto. Digli a questa testa. Fai parlare un attimo Donato, dai, su. Figli a questa testa di cazzo, questo emerito coglione. Fallo parlare un attimo! Che pare il saluto romano non significa andare a rubare nella casa della gente. Vabbè, quello fare nessuno il saluto lo dice. Romano non significa andare a violentare qualcuno. Fare il saluto romano non significa lanciare diktat sul cristianesimo. Fare il saluto romano, no? Fare il saluto. Non esiste da 70 anni che un italiano abbia fatto un saluto romano e quel saluto romano abbia causato un danno, qualcuno che sia morto. A questo, e allora, io sono a favore della statua di Almirante, che vale un milione di volte di questo meschino e pezzente che c'hai a fianco. Almirante, signor Almirante. Certo, io sono a favore della statua di Almirante, la costruirei no, la statua. Con le mie mani. No, è la strada, voglio intitolare la strada, però la statua. Per quanto riguarda gli zingari, casa mia mi hanno sbagliato. Quando? Tre volte la casa. Quando? Una bella notizia, finalmente. Come una bella notizia, dai. Questa era da dire subito, in apertura. No, dai. Ma come? No. Tre volte mi hanno sbagliato la casa qualche anno fa, ma hanno portato cosa hanno trovato? Nulla, si saranno arrabbiati. Biciclette. Nulla hanno trovato, probabilmente. Allora, gli zingari devono essere completamente presi, tutti di un peso, completamente questo preso. Porco che è a fianco, eccolo e qua, devono andare nei loro paesi di origine. Almeno che non si prenda ognuno di questi e lo si voglia integrare, finché non vi sia l'ultimo italiano che possa lavorare. Ma spesso sono italiani, però, Donato, bisogna dirlo, sono italiani. Ma chi l'ha fatto italiano? Beh, chi l'ha fatti? Sono diversi. L'italiano sei tu. L'italiano sono io. Mica questo porco che è a fianco. È stato De Benedetti. Guarda, quello e quell'altro. De Benedetti. Niente, volete tanto cosa, sono molto incazzato. No, scusami, Donato, non ho capito che la sto. Perché ti ha fatto incazzare scusami, i Roma? Perché ti hanno fatto incazzare Donato, i Roma? Questa è una trasmissione nella quale si chiede scusa a un coglione come Donato da Varese. Ma ti rendi conto? Allora, i Roma devono essere completamente. Quei campi non ci vuole nemmeno una ruspa. Allora, perché Roma che non vuole fatto? Che va case? Fatto con quei campi? Beh. Quei campi devono essere bruciati al suolo, tirati fuori, bruciati al suolo, basta, bruciati al suolo, tirati come un italiano dorme in mezzo alla strada, una famiglia in mezzo alla strada. Allora anche i Roma italiani in mezzo alla strada. Non so perché qualcuno si deve preoccupare dei Rom. Allora io dico questa merda che hai a fianco, io te l'ho detto già, Giuseppe, questa merda che hai a fianco. Sì, sì. Poi un domani in privato mi spiegherai perché te lo tieni. Questa merda che hai a fianco non serve un cazzo. Ma allora, ti conto? Io però devo dire una cosa, voglio, adesso basta, devo chiudere, però devo dire una cosa. Donato è ufficialmente uno degli editorialisti della Zanzara, caro Parenzo. Arrenditi. È ufficialmente uno degli editorialisti di punta della Zanzara. Hai fatto l'accordo con quelli che vendono le bombole d'ossigeno? A domani, ciao. Giuseppe, siamo massacrati però con questa trasmissione. Parliamo un poco di pelo, un poco di figa, un poco di mignotte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.